Effetto Mondo. And what's his closing argument? That people are too focused on COVID. He said this at one of his rallies. COVID, COVID, COVID, he's complaining. He's jealous of COVID's media coverage. La voce inconfondibile, Giulia, di Obama. Cosa ha detto in questo appello? Ormai insomma si sta spendendo con tutte le sue energie a favore del suo ex vice Biden, e quindi In questo il Covid continua a essere il tema numero uno. Adesso ho appena visto un alert della CNN, nuovo record di contagi negli Stati Uniti, e Obama dice, da una parte Donald Trump continua a dire che c'è troppa discussione, e è vero, gli ha fatto un po' il verso, cioè Donald Trump pochi giorni fa ha detto ma io non sento che parlare di Covid, quindi Obama gli ha fatto un po' il verso. E poi questa battuta, ormai i colpi bassi sono all'ordine non del giorno ma dell'ora, del minuto, ha detto probabilmente Donald Trump semplicemente è geloso di quanta attenzione mediatica ha il Covid rispetto a lui, perché nella parte precedente, anche dopo, Obama aveva detto Donald Trump dice di voler fare il bene degli Stati Uniti e dell'America, in realtà pensa è come focalizzato solo su se stesso, e questa è una critica che viene da molte parti. Giulia, i giornali, soprattutto quelli americani, seguono anche l'andamento del voto. Un terzo degli elettori aventi diritto ha già votato, è un dato grave, è sempre stato così? No, è il record assoluto. Adesso, come dicevamo nei giorni scorsi, bisogna vedere se in questo 33% circa, appunto, degli aventi diritto ci sono quelli che avrebbero votato il giorno quindi il 3 novembre, oppure se sono nuovi elettori. È molto difficile da capire, perché non è detto che chi si è registrato, non basta guardare i voti di chi si è registrato. Ricordiamolo, negli Stati Uniti, tranne che nello stato del North Dakota, è obbligatorio pre-registrarsi, cioè dire io voterò. E se volendo anche dichiarando se si è repubblicani, democratici o indipendenti. Non è obbligatorio, ma si può fare. I giornali come interpretano questo in un senso o nell'altro, insomma? Per esempio il Boston Globe dice: a questo punto potremmo quasi già pensare che il Senato passerà ai democratici, però sono tutte un po' previsioni. Il Washington Post titola voti le elezioni verso un record di affluenza. E poi naturalmente c'è la questione degli scontri a Filadelfia, dove c'è stato l'ennesimo episodio di violenza contro un afroamericano da parte della polizia. E poi c'è la California, perché per due motivi. Primo, perché di nuovo nuovi incendi, ci sono 90.000 persone evacuate in una contea della California. E poi in California sappiamo bene quanti problemi hanno in generale tutti i comuni, ma le regioni e naturalmente lo Stato, con le entrate fiscali che vengono a mancare. Lo Stato della California sta pensando di cambiare la legge sulle tasse, che sono sempre state storicamente dal 78 molto basse, ed è anche la ragione per la quale la Silicon Valley è cresciuta così tanto, sia sulle case private che sugli uffici, che sugli stabilimenti, diciamo. Però il governatore della California e i californiani stessi si stanno rendendo conto che non possono più permettersi delle tasse sugli immobiliari così basse, quindi forse sarà un tema post campagna elettorale. Com'è la voce di Melania Trump? Io non l'ho presente. Ha un accento molto pesante. Lei è negli Stati Uniti da quando aveva 18 anni, e adesso ne ha un po' più di 50, quindi sono passati tanti anni, ma ha ancora un bel accento europeo. Certo, sentiamola. I do not always agree with the way he says things. But it is important to him that he speaks directly to the people he serves. Dice, ho capito, parla direttamente al suo popolo. Dice non sono sempre, e qui naturalmente ha scatenato giustamente insomma l'applauso, le risate del pubblico, non sono sempre d'accordo nel modo in cui mio marito Donald comunica attraverso i social, soprattutto Twitter, però vi assicuro che lo fa perché per lui è molto importante avere questo filo diretto con gli elettori. Interessante questa cosa di Melania, che fa capire come il personaggio Trump deve comunque sempre essere descritto così, solo contro tutti, addirittura contro la moglie, cioè non contro, ma insomma lei che dice non sempre sono d'accordo con lui. Però devo dire, dopo, nella parte prima e nella parte dopo, se siete curiosi l'ascoltate, poi appunto avendo questo accento molto forte paradossalmente più facile capirla per noi, con questo inglese che però è perfetto, ha soltanto l'accento, dice anche insomma parla del marito, più volte lo nomina, no, Donald, e dice fidatevi perché io gli sono stato accanto in tutto tutti questi mesi non ha che il bene di tutti gli americani a cuore. Al primo posto. Allora, andiamo sugli altri giornali, vediamo che titoli ci sono. Naturalmente nel Regno Unito, che ha superato la soglia dei 60.000 morti, c'è un grande allarme. Ho trovato molto interessante il grafico che pubblica il Daily Telegraph, che divide first wave e second wave, quindi prima ondata e seconda ondata. Nella prima ondata c'è stato un picco con molti più morti giornalieri di adesso, questa è la previsione degli scienziati americani. La seconda ondata durerà molto di più, ma la previsione è che il numero di morti giornaliero resti stabile. Quindi una second wave molto più lunga, ma con fai vedere che forse anche a favore di telecamera qualcuno ci segue. No, vediamo, dov'è un po'? Il nostro telecamera? È qua davanti, ma insomma, il grafico non è si vede il picco da una parte e l'onda piatta dall'altra. Esatto. E poi c'è anche questa tragedia dell'immigrazione, perché anche nella Manica naturalmente ci sono moltissime barche di immigranti che cercano di raggiungere il Regno Unito, la zona intorno a Southampton. Ieri ne è affondata una e sono morti anche due bambini, 4 morti in tutto, 2 bambini di 5 e 8 anni, e questo conquista la prima pagina di tutti i giornali. Se pensate che da noi a volte si fa fatica ormai a trovare in prima pagina i naufragi con molte più vittime, dall'idea che insomma lì, forse anche per ragioni climatiche, adesso fa molto freddo, quindi sono meno le navi che cercano di raggiungere le coste del Regno Unito, però insomma fa molto effetto queste tragedie del mare. Allora, la Germania è molto vicina a una situazione critica, perché la Merkel ha detto, ha proposto alle regioni, facciamo questo lockdown soft. Sì, i titoli dei giornali sono un po', insomma, decisamente preoccupati. Cioè, la Welt parla del più importante Gipfel, vertice di tutto l'anno, quindi dall'inizio della pandemia. Il tema naturalmente è di conciliare, perché anche la Germania ha, lo sappiamo, sta accumulando deficit, quindi di conciliare le esigenze dell'economia con quelle degli ospedali, che si stanno riempendo. Come dicevi tu, contemporaneamente si lavora a incrementare ulteriormente la capacità di testare e elaborare i test, perché poi il tema è quello, e naturalmente tracciare. Sappiamo, la app, l'equivalente dell'app Immuni, funziona abbastanza bene, non è sufficiente. Però sulle prime pagine dei giornali tedeschi c'è anche spazio per la grande crisi diplomatica tra Francia e Turchia, e la Germania, nonostante sappiamo abbia una popolazione di immigrati di prima e seconda generazione dalla Turchia, a questo punto ha preso una posizione molto netta, perché Erdogan in qualche modo va arginato, anche solo a parole, però insomma è oggettivamente ormai un pericolo per tutta l'Europa. Bruxelles ha detto qualcosa, ma a questo punto la Germania ha sentito il bisogno di intervenire direttamente. Pochissimi secondi ancora, se vuoi qualche altro titolo. Sì, se vuoi, dalla Spagna si è riaccesa l'attenzione sul Venezuela, perché ieri Leopoldo López, che è storico esponente dell'opposizione a Maduro, ha fatto un intervento molto, molto lungo, molto ascoltato a Madrid, aveva tra l'altro con sé la sua famiglia, e ha ribadito: cercheremo noi esiliati di liberare il Venezuela, e come se fosse anche, però aiutateci, perché ovviamente da soli non ce la possiamo fare. Grazie Giulia, ci risentiamo domani. Oggi con Valeria Bernardi in regia, Jacopo De Franchi in redazione, tra poco l'aggiornamento alle 14. Ciao, buona giornata.